A bordo campo di Dario Ricci. 52 chilometri, un dislivello in salita di 4.200 metri, 7 passi da superare sopra i 2.500 metri, col Gran Premio della Montagna oltre 2.900 metri di passo cameraccio. Siamo nelle Alpi Retiche, nella Val Masino, e stiamo parlando del trofeo Kima, forse il più prestigioso trofeo internazionale di sky running. Quest'anno, segnatevelo con un circoletto rosso sul calendario, appuntamento al 31 agosto con questi supereroi dello sport estremo, perché davvero faccio fatica a trovare un'altra espressione, amici da bordo campo, per definire questi super atleti che sfidano se stessi e la montagna in questa competizione. E allora di questo oggi parliamo con un ospite davvero particolare, un campionissimo dello skyrunning che il trofeo Kima l'ha già vinto un bel paio di volte e che tenterà la sfida, tenterà ancora l'impresa quest'anno. Benvenuto a Paolo Gotti, grazie per essere il nostro ospite a Radio 24 e a bordo campo. Buongiorno a tutti, grazie di avermi chiamato. Beh Paolo, allora innanzitutto spiegaci un po' se la gamba è pronta per questa ennesima sfida estrema, perché davvero insomma tra i 52 chilometri e i dislivelli direi che a fine giornata uno ne ha abbastanza, no, di montagna alla fine del trofeo Kima. Sì, sicuramente sì, è una questione di passione, quindi quando si ha passione, anche se si affrontano 52 chilometri, come hai poc'anzi descritto, ma essere sincero, mentre sei in gara non ci si accorge, anche se alla fine si impiegano più di 6 ore per i primi a percorrere tutto il percorso, veramente sembra che passi solo un attimo. Sei talmente preso dal ritmo di gara che quasi non te ne accorgi, insomma. Esatto, un po' la concentrazione, un po' il fascino delle montagne, dei luoghi che si incontrano, soprattutto correndo il Trofeo Kima, che come hai detto prima è una gara epica, è una sicuramente delle, tu hai detto, una forse la principale, la più bella in assoluto a livello internazionale. E posso dire che come caratteristiche ha l'unicità di essere veramente veramente tecnica, e questo viene riconosciuto anche dai più grandi atleti, non solo italiani ma anche dai più grandi atleti stranieri, come può essere Kilian Jornet-Burgala, che è riconosciuto a livello mondiale il numero uno in assoluto, che anche lui questa gara l'ha vinta già 2 volte. Quindi insomma sei in buona compagnia in queste sfide, ma ti dico, chiaramente skyrunning vuol dire che mescolate corsa, arrampicata, qualche passaggio di quasi alpinismo, c'è tutto, sì. Questo, no? Sì, skyrunning innanzitutto è un bellissimo sport che consiglio a tutti con le dovute precauzioni, con il giusto allenamento. Magari cominciando qualche chilometro in meno, no? esatto. Il Trofeo Kima è stata una delle prime gare in assoluto di skyrunning proposte a livello nazionale e anche internazionale. Si parla ancora da fine anni 90. Sì, siamo sulle orme del Kima sono poi nate ormai centinaia di gare che vengono proposte durante tutto il corso dell'anno, centinaia solo in Italia, senza parlare poi di quelle che vengono proposte in tutto il resto d'Europa e in tutto il resto del mondo. Tra l'altro anche i precursori siamo stati noi italiani, a mio avviso. Vabbè. Adesso ci arriviamo, ma tra l'altro lo skyrunning c'ha diverse forme in cui viene declinato, no? C'è la sky marathon, la sky race, la vertical kilometer. La lunghezza, i dislivelli, le quote che si raggiungono, ci sono appunto varie tipologie, appunto come stavi dicendo tu, ci sono i vertical kilometer dove si affrontano brevi tratti, assolutamente compresi fra i 3 e i 5 km, si affrontano 1000 metri di dislivello, ci sono le sky race che sono percorsi dove appunto vengono proposti dei percorsi intorno ai 20 km, dai 20 ai 30 km con dislivelli intorno ai 2000 metri, però si mantengono sempre quote relativamente basse, intorno al massimo 2000 metri. Poi ci sono le Sky Marathon, che, come dice la parola stessa, propongono la distanza dei 42 chilometri, quindi la maratona classica, però con dislivelli notevoli, intorno solitamente ai 3.000 metri positivi e poi altrettanto negativi solitamente. E poi ci sono le Ultra Sky Marathon, che sono le gare top, come appunto il Kima, che è Sì, una gara di chiaro, sanno un 42 po'. chilometri con dislivelli Sono l'eccellenza, insomma. importanti, perché si passano i 4.000 metri di salita e 4.000 di discesa, ma che rende poi unico il Kima proprio la difficoltà tecnica che si incontrano. Infatti il Kima, a mio avviso, non è una gara per tutti, mentre invece, come possono essere invece le Sky Race, come possono essere talune Sky Marathon, non tutte, appunto non può essere una gara per tutti, perché oltre al fatto di avere sicuramente, dover essere veramente preparati fisicamente per stare sulle gambe, quindi come corsa, bisogna avere anche una conoscenza base di alpinismo, perché si affrontano nei passi che citavi tu all'inizio, anche alcune ferrate che gli escursionisti normali affrontano con kit da ferrata, quindi cordino, caschetto, qualche moschettone, mentre invece in gara, appunto, per allenamento, grazie alla preparazione, grazie alla conoscenza anche della montagna, si possono affrontare in completa sicurezza, senza problemi. Beh, insomma, allora guarda, questo ti dà qualche speranza perché allora aspetterò ancora un anno per sfidarti nel trofeo Kima, così quest'anno datti da fare perché st'altro anno potresti non vincerlo più. Esatto, avrai 2 anni per poterlo preparare, perché Kima, vista anche la difficoltà nell'organizzare un evento del genere, viene proposto ogni 2 anni, Ah, bene, quindi questo hai tempo 2 anni per prepararlo, mi quindi ri potrei Mi avere rincuora molto, un mi attimo di. rincuora molto. Senti, a proposito di consigli per avvicinarsi allo skyrunning, tu come hai iniziato? So che inizialmente la passione, come quella di tanti, era il calcio, no? Poi è arrivata invece l'amore sfrenato per la montagna e per queste sfide. Esatto, ho giocato 16 anni a calcio, perché ero appassionato, poi quando si è ragazzi fare sport di squadra è sempre bello e aiuta sicuramente a crescere. Però sono sempre stato anche legato alla montagna, proprio per una questione di famiglia, visto che mio papà è sempre andato in montagna, si è sempre portato in montagna fin da bambini. Poi abitando comunque qua a Vera, che è un ritosso delle montagne, è anche sicuramente più facile per chi abita in pianura o chi abita altrove, dove non ci sono le montagne. E da lì pian piano, siccome poi anche in famiglia si è sempre vissuto un po' di agonismo, un po' per tutti gli sport, che si è appassionati di sport, così per caso, per sfidare un pochino, non so, qualche tempo che mi diceva mio papà di aver fatto una salita alcune montagne, ho iniziato a correre, ho visto che questi tempi riuscivo a batterli e allora mi sono detto, perché non confrontarmi anche con altri, e pian piano ho iniziato a fare qualche gara di corsa in montagna, prima classica, distanze brevi, comunque 10 km senza difficoltà tecniche. Fin quando mi sono accorto che comunque più si allungavano le distanze, più i miei risultati erano buoni, e riuscivo a battere avversari che solitamente nelle gare corte mi arrivavano davanti. E quindi ho iniziato Insomma, sempre più duro ad allenarmi, la allenarmi, montagna ha cominciato a darti allenarmi. soddisfazione. Esatto, ho cominciato a vincere le prime gare, poi avere la fame mi è mangiando, finché sono riuscito a vincere nel 2007 sul percorso di emergenza, poi nel 2008 sul percorso integrale, il trofeo Kima. Trofeo Kima, che è sempre stato un sogno, no? Un mito, come, non so, fare un paragone col ciclismo, la Parigi-Roubaix per un ciclista. Veramente un sogno riuscire a parteciparvi e poi riuscire a vincerlo è proprio una realizzazione assoluta a livello sportivo. Senti, ma ti chiedo di skyrunning, si riesce a vivere? Tu puoi essere considerato atleta professionista oppure? Purtroppo no, io non sono mai riuscito a vivere di skyrunning, e attualmente chi vive di skyrunning, che conosca io, è solo Kilian Jornet-Burgada, ripeto il nome di Kilian, perché è veramente ormai conosciuto da tantissima gente, magari non da tutti, però veramente è conosciuto ovunque. Io mi sono sempre definito, pur allenandomi tanto, un amatore, perché comunque non è la mia professione, anche se poi magari d'inverno ci si allena tutti i giorni, i sacrifici sono tanti, però beh, fondamentalmente si è amatori. Adesso, almeno questo inizialmente, adesso io comincio ad avere 37 anni, quindi un po' di chilometri sulle gambe li ho. Bisogna fare il tagliando, insomma. Bisogna fare il tagliando, esatto. Infatti quest'anno sono dovuto star fermo 3 mesi per una fastidiosa infiammazione della tendine d'Achille che non mi ha consentito di prepararmi come avrei voluto. Vabbè. Però beh, adesso invece, siccome appunto questo sport è in enorme crescita, enorme espansione, c'è sempre più gente che affronta gare di skyrunning, sicuramente non impegnative come il clima, però come dicevo prima, ormai ci sono centinaia di gare in Italia nel calendario nazionale. E ci sono tantissime gare che sono alla portata di tanta gente perché non sono impegnative tecnicamente. E questo sviluppo, questo sempre un maggior numero di persone che partecipano, fanno in modo che ci sia sempre anche un maggior interesse mediatico, quindi comincio a girare un po' di sponsor e spero con tutto il cuore che nel futuro imminente qualche giovane abbia la possibilità effettivamente di vivere di skyrunning, perché è veramente uno sport che dà tante soddisfazioni. Eh beh, assolutamente condivisibile il tuo desiderio, Paolo, anche a vedere le tue immagini sul web, veramente vien voglia, ma è quasi convinto in fondo a questa chiacchierata. Ti chiedo un'ultima curiosità prima di salutarti, ma fai in tempo a goderti un po' il panorama quando stai su? Ma in gara solitamente difficile, magari proprio qualche occhiata, però si è talmente concentrati sul dove si appoggiano i piedi e sul discorso competizione che non ci si gode il paesaggio. Però è anche vero che solitamente prima di andare a affrontare un percorso in gara si va sempre a visionarlo, e quindi quando si va a visionarlo precedentemente ce lo si può veramente godere, quindi non è che andiamo, non è che siamo solo capaci di correre, la corsa è limitata solo al discorso gara, dove si corre praticamente con le briglie sugli occhi, mentre invece ci si gode il paesaggio con calma quando si vanno a fare le ricognizioni del percorso, comunque sia quando si va a passeggiare in montagna, perché appunto non corriamo, non siamo solo capaci di correre, andiamo anche a godersi la montagna. E allora Paolo Gotti, goditi veramente questo trofeo Kima, attenzione se lo incontrate, se vi chiede di fare una passeggiata in montagna non dategli confidenza perché è difficile mantenere il passo, ma insomma soprattutto un grande in bocca al lupo per questo trofeo e per questa la continuazione della tua carriera. Grazie Paolo Gotti per essere stato oggi nostro ospite qui a Bordo Campo. Grazie a voi e buona giornata ancora, e speriamo, se avete voglia di fare un weekend in Val Marino, siete sicuramente benvenuti e vedete un bello spettacolo sicuramente. A Bordo Campo. L'avevamo lasciato sulle pendici del Nanga Parbat e lo ritroviamo stavolta di ritorno da un'altra grande montagna della terra, un altro grande 8000, o meglio forse proprio l'8000 degli italiani. E allora oggi a Bordo Campo ritroviamo un nostro grande amico di Radio 24 e di questa trasmissione, ben ritrovato Daniele Nardi. Ciao Dario e ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, lo conoscete ormai Daniele Nardi, uno dei principali 8000isti italiani, ben 5 gli 8000 nel suo palmarès, tante vie nuove aperte un po' in ogni dove nella sua carriera da alpinista. Beh, appunto Daniele, ti avevamo lasciato dalle parti del Nanga Parbat, che sta diventando il tuo principale obiettivo e presto ne parleremo, ma ti ritroviamo invece reduce da un'importante spedizione sul K2 a 60 anni dalla conquista di quella vetta leggendaria, conquista straordinaria e drammatica come ci racconta la storia dell'alpinismo. Sei ritornato lassù quasi in vetta questa volta, con chi, con che progetto? Beh, quest'anno Everest K2CNR, che è questo comitato del Consiglio Nazionale delle Ricerche, diciamo, ha sostenuto quella che è la spedizione pakistana che avrebbe dovuto festeggiare il 60° dalla prima scalata italiana. Quindi Pakistan e Italia si mettono insieme per fare un progetto nuovo. Infatti ormai sappiamo che il K2 è stato scalato più volte, però cioè, l'Italia insomma al 60° ha voluto festeggiare sostenendo appunto questi pakistani che pensa hanno un'idea straordinaria, cioè quella di evolversi da portatori di bassa quota a portatori d'alta quota e infine il grande sogno di diventare alpinisti. Quindi quando il comitato del CNR di K2 ha saputo di questo progetto, di questo grande desiderio di diventare alpinisti a tutti gli effetti, quindi di scalare la montagna delle montagne, che tra l'altro poi fisicamente noi la chiamiamo la montagna degli italiani, ma anche un po' impropriamente, perché in effetti sta in Pakistan, quindi è dei pakistani, allora questi grandi ragazzi hanno voluto così evolversi per cercare di diventare alpinisti. Noi siamo andati lì per supportarli. Il mio ruolo in realtà poi era quello di documentare la grande scalata. Conoscendo il K2, chiaramente ho fatto un po' da factotum e ho cercato di trasmettere sia la mia conoscenza e la mia esperienza, ma allo stesso tempo usare il mio allenamento per cercare di fare immagini particolari che potessero documentare questo grande evento. Eh sì, stavolta hai giocato un po' da regista, anche con la telecamerina in mano, visto che il K2 tu l'hai scalato in estate ed è insieme al Nanga Parbat, lo ricordiamo, l'unico 8000 ancora inviolato in inverno. Ecco, che sensazione hai provato in questo ruolo di aiutante e di supporto a questa spedizione così particolare? Ma intanto il K2, giusto per posizionarlo geograficamente, si trova molto più a nord del Nanga Parbat, che tra gli 8000 diciamo forse è quello più isolato e un pochettino più a sud rispetto alla catena del Karakorum e quindi del nord area, dove c'è il K2, il Broad Peak, i Gashmu, sono tutte montagne di 8000 metri e che si trovano sul ghiacciaio del Baltoro. Questo ghiacciaio che poi negli anni, sempre attraverso il DK2, è diventato il Central Karakorum National Park, quindi anche quest'altro sogno di far diventare un parco nazionale questa zona. Io tornavo lì per la seconda volta, è stata un'emozione grandiosa perché poi alla fine mi sono ritrovato a ripercorrere, a ricordare, a riguardare e a rivedere tante cose. È chiaro che dopo 2 anni in cui ho cercato di affrontare in stile alpino una montagna così difficile come il Nanga Parbat e tra l'altro in inverno cercando di aprire una via nuova, devo ammettere che affrontare il K2 l'ho affrontato veramente con un'ottica molto diversa. Non voglio dire che mi è sembrato facile, perché il K2 non lo è mai, però devo ammettere che il fatto di avere così tante persone, di avere degli sherpa con l'ossigeno che di altre spedizioni, diciamo mi ha reso la salita al K2 un po' particolare, quindi emozioni fortissime perché tornavo su una montagna che è stato il mio grande sogno, ma ha lasciato anche degli strascichi piuttosto tragici, perché io purtroppo ho perso un compagno di cordata quell'anno nel 2007 nella mia spedizione, quindi sono stati momenti molto particolari, molto difficili, belli da una parte ma allo stesso tempo tristi, perché mi hanno riportato comunque momenti molto dolorosi che non dimenticherò mai. D'altro canto però ero lì a sostegno di questa spedizione e cercare di far vedere che cosa significa scalare il K2, che cosa significa andare oltre gli 8000 metri e riuscire in qualche maniera a fare dell'alpinismo d'alta quota, per cui ero molto concentrato sul mio ruolo, perché so e sapevo che se il mondo oggi può conoscere questa scalata è anche grazie a quelle riprese che in ipossia sono molto difficili da fare, quindi ero veramente molto concentrato su quell'attività e insomma arrivare a Campo 4 a quasi 8000 metri e fare delle riprese, vi garantisco, per 2 giorni consecutivi è stato veramente un grande impegno. Eh sì, cominci a avere qualche visione mistica diciamo a quelle quote, in quelle sì, condizioni sì. Senti, esatto. Ti chiedo, ecco, interessante l'idea e lo spunto del progetto, cioè il creare una scuola alpinistica autoctona pakistana, no? Da quello che ho visto e dalle documentazioni che anche voi avete prodotto durante la spedizione, di fatto questa scuola sta prendendo corpo, cioè assolutamente sì, sta prendendo corpo, ma dei ragazzi straordinari, credimi Dario, delle persone che hanno voluto innalzare la loro indole di portatori di bassa quota ad alpinisti veri e propri, costruendo, diciamo, e portando avanti due scuole, quella di Usce e quella addirittura di Shimshal, che è un po' più lontano rispetto al Baltoro, dove addirittura ci sono delle donne alpiniste che si stanno cimentando su montagne di 6.000-7.000 metri e magari in futuro anche più in alto. Quindi veramente qualcosa di straordinario che questi ragazzi stanno facendo per innalzare in qualche modo anche la loro condizione economica, perché è chiaro, essere alpinisti gli può permettere anche di vivere meglio con il turismo d'alta quota. Ecco, dal punto di vista tecnico come l'hai trovata? A che punto stanno? Beh, è chiaro che dal punto di vista tecnico è stato fondamentale l'apporto che è stato dato dal comitato, in quanto Michele Cucchi, che era uno dei due, diciamo, dei due alpinisti ufficialmente, no? Perché pur essendo alpinista io in realtà in quella condizione ero un montaniere incommunicator, cioè una figura un po' strana, cioè qualcuno che comunica in alta quota, quindi diciamo non voglio vedermi come alpinista, anche se poi per arrivare a 8.000 lo devi essere forse anche più di altri, insomma. Però ecco, Michele negli anni precedenti ha fatto una serie di visite in Pakistan proprio da questi ragazzi, per aiutarli a capire intanto quello che possono essere le tecniche di soccorso alpino applicato al Karakorum, quindi proprio cercando di creare un rescue team che adesso è attivo lì proprio sul ghiacciaio del Baltoro, e d'altro canto per insegnargli quelle tecniche sovraffine di riscalata sul ghiaccio, che lì proprio al Collo di Bottiglia, che è l'ultimo passaggio tecnico a 8.300 metri, è fondamentale. È chiaro che su quell'aspetto di strada ne devono fare ancora molta, però sicuramente per le montagne di 8.000 metri oggi sono veramente a buon punto per quanto concerne le tecniche di scalata, proprio tecniche, quando parlo proprio di salire quasi sul verticale, quindi questo è straordinario, perché è quello che forse manca di più a questi ragazzi, proprio la tecnica di scalata sul ghiaccio verticale. Ecco, in prospettiva futura credi che si possano creare delle rivalità perché per questo potenziale cambiamento di ruolo? Cioè, noi europei che andiamo lì anche con una certa, permettimi il termine, arroganza, spesso considerando quelle montagne come nostre, siamo pronti ad accettare questa evoluzione della figura dell'accompagnatore pakistano in vero e proprio alpinista? Io credo che questa cosa l'accetteranno solo un po' più, diciamo, gli illuminati dell'alpinismo, che vedranno in questi uomini non più soltanto, per concedimi il termine, dei muli o dei somari d'alta quota, ma dei veri uomini alpinisti che sanno quello che stanno facendo. Io utilizzo un linguaggio duro perché in tante spedizioni che ho fatto in Himalaya e in Karakorum purtroppo ho visto delle situazioni veramente brutte, e questo secondo me è un segnale molto positivo che fa sì che quelle montagne, sì, da una parte sono nostre, però ritornano ai loro veri proprietari che dimostrano di avere una grande passione, una passione che li paragona perfettamente, quindi li porta allo stesso livello degli occidentali e forse un pochettino di più, perché loro si stanno approvinquando a questo tipo di alpinismo adesso, quindi la loro passione è completamente intatta, non è viziata magari dallo sponsor oppure dai media oppure da quant'altro, ma è veramente proprio il desiderio di scalare le montagne. Io gliel'ho letto negli occhi, ti garantisco che è stata un'emozione veramente, veramente bella, e poi un segno anche di umiltà, perché loro sono partiti con l'idea proprio di salire la montagna in punta di piedi. Io infatti sono strafelice di aver partecipato a questa spedizione e so già che, insomma, nel futuro probabilmente qualche altra cosa insieme si farà, e questo è il presupposto per costruire grandi squadre internazionali per scalare le montagne più belle del mondo. E adesso arriviamo proprio a parlare anche del futuro, però ti chiedo ancora, abbiamo visto tramite il tuo blog danielenardi.org, tramite la tua pagina Facebook, delle immagini e dei momenti straordinari di questa spedizione. Ecco, qual è il fotogramma, l'immagine, il momento che ti rimane più vivo nella memoria? Il momento più bello è stato quando, diciamo, con il capo spedizione e presidente di FDK2CNR, che ringrazio, Agostino da Polenza, abbiamo deciso, diciamo, che non avrei tentato la vetta, ma sarei rimasto come punto di riferimento lì proprio a Campo 4, a circa 7.800 metri, sia a dirigere i progetti scientifici che comunque c'erano all'interno del programma di spedizione, e poi a seguire tramite radio e tramite telefono satellitare tutta la scalata. In quel momento, durante la notte, quando gli alpinisti sono partiti, feriti, ho avuto la forza e il coraggio di mettere la macchina fotografica fuori dalla tenda, facendo una specie di treppiedi con la neve ghiacciata dei quasi 8000 metri, e lì ho scattato un'immagine di notte dove si vede tutta la stellata e le luci degli alpinisti che illuminano tutto il collo di bottiglia e parte insomma dell'altro tracciato, diciamo, verso l'alto. Io credo che quella immagine impersonifichi proprio totalmente proprio l'esperienza umana a 8000 metri sul K2, perché si vedono proprio le parti più difficili e questa stellata incredibile oltre gli 8000 metri, che sembra dove tu veramente puoi allungare la mano e raccogliere le stelle a grappoli. E credo che quella foto, in qualche modo, un po' per fortuna, un po' per caparbietà, è riuscita veramente molto bene. Spero che continui ad essere pubblicata, perché è uno dei modi migliore per trasmettere, secondo me, la grande passione per la montagna e per l'alpinismo. Senti, macchinetta fotografica carica anche per quest'inverno, per scattare un po' di foto dalla vetta del Nanga Parbat? Assolutamente sì, sono stracarico, motivato, partirò credo intorno al 15-20 dicembre per il terzo tentativo al Nanga Parbat. Sono abbastanza certo che Elisabeth questa volta ha già accettato praticamente l'invito di tornare insieme al Nanga Parbat. Elisabeth Revol che ti accompagnò durante il primo tentativo, sì, assolutamente sì. E ti dico che una maggiore energia mi deriva anche da un fatto ben preciso, no? Io ho visto in questa spedizione al K2 la spedizione commerciale con gli Sherpa che portava su dei clienti, e d'altro canto però ho visto noi che andavamo su senza ossigeno. E pensa che l'esperienza più incredibile è stato sapere, non vederlo direttamente, ma sapere che i nostri senza ossigeno battevano la traccia oltre 8000 metri a tutte le altre spedizioni. E questo fa proprio una differenza fra chi sale senza ossigeno e chi sale con l'ossigeno. Cioè, questi ragazzi inoltre hanno dimostrato che quando si ha una grande passione, un grande allenamento e si sa quello che si sta facendo, si può battere la traccia anche a chi magari dietro viene con l'ossigeno, quindi dare veramente il massimo. È proprio la spiritualità delle persone che va oltre la fisicità, quindi è una cosa incredibile. Questo mi dà energia per tentare una cosa che tutti loro hanno pregato per me proprio al campo base prima di andare via, affinché possa riuscire nel prossimo inverno. Quindi li sento anche loro così vicini, ed è veramente per me una grande energia per partire ancora più motivato nel prossimo futuro. È davvero una bella spinta. Allora, Daniele Nardi, intanto complimenti per questo tuo modo nuovo e diverso di aver conosciuto il K2 e la montagna degli italiani, e in bocca al lupo per la nuova sfida al Nanga Parbat. Grazie mille Dario, grazie a tutti voi e a presto. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it, anche in podcast, dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. A Bordo Campo torna come sempre domenica prossima alle 16:30 e in replica il sabato mattina alle 6:15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.